Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Andrea Orlando Spezzino, 47 anni, scapolo, figlio di famiglia semplice, campano d'origine, ligure d'adozione, attento, prudente, pignolo, curioso di cambiare vita ed esperienza. È l'unico ministro non renziano del governo Renzi. La cosa che certamente è in comune con lui però è la passione per la Fiorentina. Una storia politica, PC, PDS, DS, scoperto da Bersani, è stato lanciato da Fassino, è stato portavoce di Veltroni, ma la medaglia d'oro è che non è mai stato da Legnano. Per mantenersi e studiare ha fatto tanti lavori. Ecco, ministro, quali? Ho fatto il cameriere, ho fatto il manovale, ho fatto il sorvegliante. Insomma. E quale le è servito di più per l'esperienza di oggi? Ma tutti quanti, capire che c'è un mondo fuori, che non è soltanto la politica, che poi è stata invece la cosa che ha riempito gran parte della mia vita. Senta, adesso come ministro lei gira l'Italia attraverso i tribunali civili, perché dice è lì il problema numero uno della giustizia, cioè... Beh, lì noi abbiamo le performance peggiori, lì abbiamo spesso il punto in cui si consuma il rapporto tra cittadino e giustizia, quando uno deve aspettare 10 anni per avere ragione di un credito, certo. Chiaro che non riesce a conservare una grande idea né della giustizia né delle istituzioni. Ma qual è l'obiettivo concreto di questo tour? L'obiettivo è quello di supportare, di sostenere, di dare una mano ai tribunali che sono più in difficoltà. E cosa sta scoprendo che non sapeva? Beh, che in molti di questi tribunali c'è una difficoltà a programmare il lavoro perché i magistrati stanno molto poco e appena possono se ne vanno. Non lavorano? No, assolutamente. È che quando sono giovani alla prima nomina, per cui spesso anche con una serie di incompatibilità, e appena hanno la legittimazione per chiedere il trasferimento se ne vanno da un'altra parte. Senta, queste scoperte l'aiutano ad avere idee più chiare sul che fare? Sicuramente sì, anche perché si capisce il contesto, si capisce che spesso ci sono stati anche dei fatti, dei pregressi storici. Abbiamo trovato un tribunale per esempio dove l'arretrato era il frutto del fatto che quando è stato costituito gli è stato scaricato addosso l'arretrato di tutto un altro tribunale. Senta, ma perché il tallone d'Achille della giustizia è nella giustizia civile? Per queste ragioni? Ma per queste, soprattutto perché nel corso di molto tempo non ci se ne è occupato in modo strutturale. Senta, molti magistrati però l'accusano di destinare troppo tempo alla giustizia civile, poco a quella penale. Cosa risponde? Che non è vero. Non è vero. Ma che questa accusa comunque mi fa contento, perché significa che si è accolto il fatto che si occupa finalmente di civile dopo molti anni che non ci se ne è occupato. Se mi dà qualche dato allora che sostenga questa tesi della prevalenza della giustizia civile, come problema? Ma si calcola che una diminuzione dei tempi del processo potrebbe far aumentare di per sé di un punto di PIL il PIL del paese. Ma oggi quanto è il tempo medio per la soluzione di un conflitto civile? E purtroppo siamo molto oltre i 1300 giorni. Teniamo conto che è uno dei fattori principali della impossibilità di investire nel nostro paese o delle difficoltà di investire nel nostro paese. Esatto, la gente ha paura, effettivamente. Ma se, come dice lei, non è un problema di organico, di che cosa è allora? È un problema di riti, cioè di organizzazione del processo, è un problema di tecnologie. Ecco, ma l'introduzione... In alcune realtà è anche un problema di organico, è un problema di specializzazione. Noi dobbiamo lavorare per avere dei tribunali. Specializzati. Questo è un primo risultato che stiamo già ottenendo e che è stato apprezzato anche a livello internazionale. Senta, ma l'introduzione del processo civile telematico, che risultati ha portato, se li ha portati? Guardi, Doing Business, nella classifica di cui credo parlerete in questi giorni, dice due cose. Che le cose più importanti che sono successe in Italia in questo anno sono stati il Jobs Act e la introduzione del processo civile telematico. Senta, le cancellerie dei tribunali però denunciano un vuoto di organico di circa 8.000 persone. Non basterebbe trasferire il personale delle province che teoricamente avreste chiuso per risolvere il problema? È quello che stiamo facendo, ma non è una cosa semplicissima, perché ci vuole il consenso del diretto interessato, il consenso dell'amministrazione di provenienza. Comunque, per farla corta, noi stiamo portando 4.000 dipendenti delle province all'interno delle cancellerie. Senta, i primi 500 incominceranno ad andare negli uffici dalle prossime 2 settimane. Ma è un problema più suo o della Madia questo? È un problema di tutte e due che abbiamo affrontato insieme. Avete affrontato insieme. Senta, lei dice: stiamo facendo il più importante intervento sul tema dell'organizzazione degli ultimi 20 anni. È questo? Beh, coprire metà dello scoperto di organico, far partire il processo civile telematico, specializzare i tribunali, prendersi in carico tutte le sedi giudiziarie che finora erano gestite dai comuni. E si tratta davvero di una imponentissima azione di intervento proprio sull'organizzazione. Anche questo è uno dei temi che io credo sia stato più tralasciato in passato. Senta, Ministro Orlando, in realtà lei non può non sapere che molti pensano che lei si occupa più del civile che del penale, perché ci sono molte meno rogne nel civile che nel penale. Lo sa, no? A parte che ci sono cose che si chiamano civile che sono altrettanto rognose, penso alla responsabilità civile, ma ci troviamo di fronte a interventi sul civile di carattere organizzativo. La maggior parte degli interventi di carattere invece legislativo sono stati nel penale: falso in bilancio, autoriciclaggio, collaborazione per chi... Quindi non è vero, sconto di pena per chi collabora nelle inchieste di corruzione, aggressione patrimoniale ai beni mafiosi. Senta, lei invoca la collaborazione con la magistratura, l'ha fatta giù anche a Bari, ma questo governo però è partito mettendo i piedi nel piatto con la storia delle ferie dei magistrati. È stato un errore oppure no? Io credo che sia stata una cosa che andava fatta. Perché? Ma perché bisognava chiedere anche ai magistrati di farsi in qualche modo carico di uno sforzo che stava facendo tutto il paese. Ma è stata un'idea sua o di Renzi? Forse l'errore, se c'è stato, è stato enfatizzarlo oltremodo. È stata un'idea del governo. Cioè, a chi è venuta prima l'idea non si sa. Sì, no, vabbè, l'idea è noto, è un'idea di Renzi, ma ne abbiamo discusso e poi alla fine abbiamo deciso di tenerla. Senta, Ministro Orlando, ma è facile o difficile andare d'accordo con Renzi? Ma meno difficile di quello che si dice. Sì? Sì. Perché si dice che è molto difficile? Beh sì, si dice che è difficile. Io penso che invece ci sia la soddisfazione di misurare una forte autonomia della politica che da un po' di tempo e infatti questa iniziativa per esempio sui magistrati è stata anche un po' un modo di dire: è tornata la politica, è così, no? No, io credo che la politica dobbiamo misurare il ritorno della politica da altre cose, non davvero però, da insomma, però che ci fosse un problema di riequilibrare il rapporto tra la politica e la magistratura è sicuro. Non so se c'è, ma comunque credo che non si risolva in questi termini. Ma i magistrati erano però abituati a riempire un vuoto, e forse non è tanto divertente ritornare nei ranghi. Ma io non credo che nessuno deve ritornare nei ranghi. Credo che la politica per moltissimo tempo ha rinunciato a svolgere una funzione di riequilibrio sociale. E la magistratura ha occupato lo spazio. Beh, ma in fondo è anche la società che gliel'ha chiesto in molte realtà. Poi bisogna vedere se tutte le volte è stato giusto assecondare questa domanda. Ma non è una cosa che ha riguardato solo la magistratura. Ha riguardato l'informazione, ha riguardato alcuni grandi soggetti religiosi. Insomma, c'è stato un vuoto della politica che poi in qualche modo è stato... Però, senta, le dico questo. Legnini, che è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, qui da noi a Mix24, ha detto: c'è stato uno sconfinamento dei magistrati ed è una patologia da superare. Lo dice il vicepresidente della magistratura, quindi il Consiglio Magistratura, vuol dire che è vero che c'è stato. Ma io continuo a pensare, ho una mia valutazione specifica, so che non tutti la condividono, ma penso che quando la politica si presenta semplicemente come alternative tra buone amministrazioni e non tra progetti diversi di costruzione di società, alla fine lascia gli spazi a molti altri soggetti, economici, politici, istituzionali, religiosi. Cioè, quando la politica non sa offrire un'idea forte del cambiamento, inevitabilmente la società però si rivolge a qualcuna. Sì, appunto, si è rivolta ai magistrati. C'è stato un eccesso di protagonismo in questa supplenza di molti magistrati oppure no? In alcune fasi c'è stato, in altri casi è stato molto enfatizzato. Non sarei però per dire che la politica, la magistratura ha svolto un ruolo strutturalmente politico. In alcuni casi ci sono stati sì degli sconfinamenti. Beh, dice sconfinamento, lo dice Legnini, insomma. Senta, adesso però anche i magistrati stanno ripensando il loro rapporto con la politica. Il CSM ha deliberato una cosa importante. Senta cosa ci ha detto Luca Palamara. Noi vogliamo chiedere dei meccanismi molto più stringenti, sia circa l'ingresso che circa il ritorno in magistratura dopo l'esperienza politica. Cioè anche l'ingresso in politica dei magistrati? Deve essere a livello locale regolamentato, perché oggi manca una chiara disciplina. Senta, quindi per capirci, per Ferri, Ingroia, Migliano, De Magistris e tanti altri, niente toga dopo l'esperienza politica, è questo? Diciamo no alle porte girevoli, e questo, e saranno meccanismi più stringenti per entrare in magistratura. Beh, un passo avanti per normalizzare i rapporti, mi sembra, no? È una, una presa di coscienza, di autocoscienza. Sì, è una questione che andava affrontata da molto tempo, io spero che il Parlamento la affronti. Bisogna stare attenti che non venga proprio oggi, perché si ritiene che in qualche modo chi in questo momento sta facendo politica, cioè sta facendo le riforme, sta collaborando col nemico. Questo deve essere un elemento che... No, d'accordo, però insomma in qualche modo il CSM è diviso in correnti, super politicizzato. Si potrà superare questa condizione? Questo dimostra il fatto che non c'è bisogno di andare in politica per fare politica. Appuntamento, ma allora appunto questo. Allora dico, basterà un'autoriforma del CSM oppure bisognerà che la politica riformi il CSM? Qualcosa si può fare con l'autoriforma, qualcosa bisogna riformarlo attraverso la legge. Io non sono contrario alle correnti. Se le correnti avessero davvero un profilo esclusivamente politico, forse sarebbe anche un elemento di trasparenza. Il problema è che assumono spesso una funzione di carattere corporativo e che spesso, diciamo, l'appartenenza conta più di quanto non conti la capacità. E questo è un dato che io credo debba essere superato. Una degenerazione corporativa di filiera, insomma. Sì, devo dire che su questo si è già aperta una riflessione importante all'interno del CSM. E infatti questo Legnini stesso ha condotto, credo, positivamente. Senta, rispetto alla responsabilità civile dei giudici, lei ha detto che l'errore va censurato, ma bisogna evitare che le modalità di censura inducano un conformismo nell'attività del magistrato. Cosa vuol dire? Non capisco. Ma una cosa molto semplice, che bisogna stare attenti che per evitare la sanzione uno non copi esattamente la sentenza del primo grado in modo tale da esporsi di meno ha una responsabilità. Insomma, ma va punito, censurato oppure no? Perché in questo caso noi andiamo tutto va a scapito dell'imputato piuttosto che fargli un favore. Quando c'è una negligenza inescusabile, come dice la legge, non quando c'è un'interpretazione della legge che non piace, ma quando c'è una negligenza inescusabile, il magistrato deve essere sanzionato. Sanzionato come? Facciamo un esempio. Per esempio, a Palermo sono emersi comportamenti davvero incredibili di un giudice. Lei cosa ha fatto? In questo caso lo abbiamo sospeso anche per ragioni cautelari, ma lì non siamo più nell'ambito della responsabilità civile, lì siamo nell'ambito della responsabilità penale. Certo. Ci sono segnali di guerra interna alla magistratura che adesso sono venute allo scoperto e che prima erano nascoste, forse coperte dall'anti-berlusconismo che copriva tutto in Italia? Ma sicuramente la fine di un conflitto frontale tra politica e magistratura ha fatto emergere anche degli elementi di conflitto all'interno della magistratura. Devo dire che penso che questi conflitti però dipendano molto anche dalla fase di cambiamento che tutte le istituzioni stanno affrontando. E anche la magistratura, con una fatica che ogni istituzione fa ad adeguarsi al ruolo nuovo che gli è chiesto. Senta, lei passa per essere un garantista. Cosa vuol dire garantista? Mettersi dal punto di vista dell'ultimo quando si valuta il funzionamento di un sistema della giustizia, sia nel penale che nel civile. Senta, ma... sia quando l'ultimo è un imputato, sia quando è una vittima. Senta, ma per esempio la carcerazione preventiva come elemento di indagine è garantista? No, la legge non lo esclude. Però viene usato. Siamo intervenuti, tanto è vero che i detenuti in attesa di primo giudizio sono diminuiti significativamente. Di quanto? Erano circa un terzo, adesso siamo attorno al 19%. Sono sempre tantissimi, Sono tanti, però dobbiamo tener conto che effettivamente esiste il pericolo di fuga, inquinamento delle prove. Poi noi contemporaneamente abbiamo una società che dice quello ieri l'ha rubato e oggi è già per la strada. Certo, e quindi c'è una spinta anche in quella direzione. Quindi ci sono anche esigenze di carattere di sicurezza. Senta, ci stiamo allineando con i parametri a livello europeo. Senta, il Papa ha detto che una pena illecita è occulta. La carcerazione preventiva ha ragione, quindi Talvolta lo è, e proprio per questo siamo intervenuti. Senta, ha chiesto anche l'amnistia per ridurre il sovraffollamento delle carceri. Una strada che volete seguire oppure no? Ma il sovraffollamento lo stiamo superando. Quindi l'amnistia niente? Ma io penso che piuttosto alle parole del Papa bisogna rispondere cambiando completamente il senso della pena e le modalità attraverso le quali la pena viene eseguita. Cioè, però in un carcere oggi si sta sdraiati su un letto tutto il giorno piuttosto che fare delle cose che possono effettivamente rieducare il detenuto. Ecco, però spesso dove ci sono iniziative di lavoro, di rieducazione, poi dopo vengono vissute con fatica dall'ordinamento carcerario anche. E abbiamo indetto per questo degli stati generali dell'esecuzione penale, perché noi abbiamo una situazione paradossale: spendiamo più soldi della media europea per il funzionamento delle carceri, oltre 2 miliardi di euro, ma siamo il paese che ha la recidiva più alta. E quindi dobbiamo cambiare completamente il modello. Io per esempio, guardi, ho visto a Padova un'esperienza fantastica, lavoro in carcere, che però invece, seguito a Mafia Capitale, tutti i problemi che sono seguiti, è stata chiusa. Un esempio come tanti, insomma, cooperative che producevano realmente lavoro che incideva sulla recidiva successiva, non c'era più. No, a Padova è stato smantellato soltanto il funzionamento in quell'ottica del servizio mensa, ma a Padova si continuano a fare biciclette e panettoni all'interno del carcere. Senta, e credo che noi però dobbiamo soprattutto evitare che ci siano delle isole felici, ma far diventare quella la media di sistema. Nelle carceri minorili, in che modo si può dare una continuità affinché i percorsi formativi che sono iniziati in carcere possano diventare percorsi professionali anche fuori? Siamo intervenuti per aumentare l'età nella quale si permane nel carcere minorile, perché fino a qualche mese fa si arrivava a una certa età e ti sbattevano nel carcere dei grandi, il che voleva dire che tutta la fatica che avevano fatto educatori, psicologi, veniva vanificata e si offriva carne giovane al reclutamento delle organizzazioni criminali. Ma perché da nord a sud le opportunità di lavoro nelle carceri non trovano sostegno, pochissimo? Guardi, quando io ho fatto il decreto che prevedeva la possibilità di introdurre sgravi fiscali per chi investiva sulle carceri, la prima reazione che c'è stata, e c'è stata una polemica molto forte, è quella di dire: ah, volete far lavorare i carcerati mentre le persone fuori non hanno il lavoro. Comunque c'è sicuramente una impostazione di questo genere che va superata e che va battuta, e noi faremo nell'arco dei prossimi mesi il più importante intervento per aumentare il lavoro in carcere, anche in questo caso, che si sia fatto in questo paese da moltissimi anni. Beh, ne parleremo quando capiterà. Senta, un problema che resta risolto, che è stato centrale anche a Bari, è quello delle intercettazioni. Ecco, senta cosa ci ha detto un magistrato importante come Gratteri. Siccome appena si arresta la persona, l'avvocato ha diritto ad avere copia integrale di tutti gli atti, quindi anche delle intercettazioni, e già quando va nelle mani di 5, 6, 10 avvocati, ormai non si controlla più. E quindi il problema è risolto alla radice, nel senso che nell'informativa si devono inserire solo le intercettazioni che riguardano il corpo del capo di imputazione, il reato, il gossip, le corna non vanno inserite. Cioè, ragione Gratteri. Assolutamente. E quindi bisogna lavorare di più sulle carte. Questo è il lavoro che stiamo provando a fare, anzi questo è il lavoro che faremo, e anche sulla base del lavoro che ha fatto anche la Commissione Gratteri e dei lavori che si sono susseguiti, delle proposte che sono venute persino dalla Federazione Nazionale della Stampa. Tutti quanti sono d'accordo nel dire che bisogna fare una scrematura delle carte, e questo è il lavoro che va fatto. Il rapporto tra informazione e magistratura è diventato un rapporto malato, che soluzione c'è? Ma questa è una risposta, credo, importante. Cercare di mettere nei fascicoli quello che è funzionale al processo penale. Naturalmente qui voglio essere chiaro, anche quello che consente anche di capire in quale ambito si sviluppa quel tipo di reato, ma non quello che veniva detto da Gratteri, cioè le corna o le vicende private. Senta, lei dice l'obbligatorietà dell'azione penale va conservata, si tratta di intervenire sui numeri riducendo il flusso in entrata. Io non capisco. Che se c'è troppa roba sulla scrivania del magistrato, alla fine il magistrato decide secondo un proprio criterio. Cioè, che va bene tutto. Se c'è una diminuzione di quelle carte perché si deve occupare effettivamente delle cose serie e non delle stupidaggini, e la possibilità di rispettare anche la ratio dell'obbligatorietà dell'azione penale è più alta. Senta, amministrare un tribunale è un po' come amministrare un ASL. Perché quelle sono affidate ai manager invece tribunali e corte d'appello e ai magistrati? magistrati, non a manager? Perché a differenza che in un ospedale dove mettere in una stanza piuttosto che nell'altra, diciamo, risponde a criteri soltanto di efficienza, far partire prima un processo piuttosto che un altro è parte integrante del funzionamento della giurisdizione. Noi abbiamo una Costituzione che ci dice che da questo punto di vista c'è una riserva, diciamo, che appartiene ai magistrati. Senta. Dopodiché non sono contrario a rafforzare anche profili manageriali che devono stare dentro i tribunali. Senta, lei ha 47 anni, l'ho detto, fa politica da sempre. Se le dicono che è un professionista della politica si offende, eh? No, spero di esserlo davvero. Cioè è un valore che va recuperato. Io sono convinto che la politica è una cosa che non si improvvisa. Non sempre quelli che fanno da tanto tempo politica davvero diventano professionisti della politica, ma se lo diventano credo che sono un elemento di garanzia per tutti. Così come credo in ogni altro ambito, soprattutto in un mondo che diventa sempre più complicato. Senta, lei con suo padre è venuto a Roma per i funerali di Berlinguer. Che ricordo ha di quel giorno? Ma molto commovente, non solo per la figura che veniva salutata, ma perché era un paese che nel paese che salutava il suo capo, ed era commovente vedere la gente più umile che veniva da ogni parte d'Italia. Senta. È un'Italia che non c'è più, non so se dire purtroppo, ma per certi aspetti sì, ma era un'Italia molto bella. Senta, ma Berlinguer oggi starebbe con Renzi o all'opposizione? Ma non si fa la storia coi sé. Non si fa la storia coi sé. Devo dire che Berlinguer ha sostenuto comunque sempre l'esigenza anche di introdurre elementi di cambiamento, e ha passato una parte importante della sua vita ad essere rimproverato di cedevolezza nei confronti di quelli che erano stati gli avversari storici. Sempre. Con l'astensione un governo Andreotti. Senta, Francesco Siciniano, il pensionato che ha ucciso il ladro è entrato in casa sua e dice basterebbe fare per la legittima difesa una legge che da 25 anni per un reato così e non capiterebbe più niente. D'accordo? No. Non sono d'accordo, nel senso che penso che dobbiamo riflettere bene su quali sono i meccanismi processuali per la valutazione di questo tipo di reato, anche se ci hanno rimesso le mani poco tempo fa, tra l'altro un ministro leghista, ma l'idea di che mettendo più armi in giro si diventi più sicuri è largamente smentito da quello che succede in paesi come gli certo. Stati Uniti. Ma intanto la delinquenza minorile però dilaga, per esempio cosa fate contro le baby gang a Napoli? Beh, la delinquenza minorile a Napoli però è anche il frutto che sono stati decapitati tutti i capi delle organizzazioni criminali, quindi da questo punto di vista è un effetto collaterale anche di successi della magistratura. E lì però bisogna naturalmente investigare, indagare, arrestare, ma poi c'è un lavoro di carattere sociale da fare, o se non si cambia il modo in cui funziona. E che va supportato però per chi lo fa. Assolutamente, e soprattutto si tratta di entrare e guardare come funzionano quelle famiglie in cui quei ragazzi crescono. Senta, mi sto dando. Lei ha detto l'idea di sbaragliare la destra solo con una leadership forte è una velleità che non condivido. Allora Renzi sbaglia. Beh, non credo che Renzi sia soltanto una leadership forte. È molto leader forte. Ma è un leader forte, però che sta facendo anche un'azione di governo importante. Non ci si limita, diciamo, al riferimento al leader. C'è il riferimento a un programma di governo. Poi ho sempre detto che serve anche la costruzione di un partito che sia in grado di sostenere questo cambiamento. E questo è un lavoro che ancora, a mio avviso, non è stato fatto a sufficienza. Cioè, il partito non c'è ancora. Beh, in molte realtà non c'è quasi per niente, e in molte realtà sta con fatica ripartendo. In tutti i casi non è quello ancora, a mio avviso, che può sostenere un'azione di carattere riformista. Senta, ma per fare le riforme vanno bene anche i voti di Verdini? Per fare le riforme servono i voti di tutti. Per fare un governo si tratta di discutere con chi farlo e con chi no. Il partito va fatto, secondo me, a chi aderisce a un profilo politico che deve essere d'accordo, sempre di più, a mio avviso, quello del Partito del Socialismo Europeo. D'accordo, ma i voti di Verdini per le riforme vanno bene? Beh, andavano bene quelli di Berlusconi, non vedo perché non vadano bene quelli di Verdini. Questo diciamo è un punto di vista stravagante che anche dentro il mio partito è stato sollevato. Addirittura andavano bene i voti di Berlusconi per sostenere un governo e non vanno bene quelli di Verdini per votare alcune riforme. Senta, se le dico che c'è chi teme una deriva gollista nel PD, lei si preoccupa o si fa una risata? Ma non vedo divise in giro. Si fa la risata. Non vedo divise in giro. Senta, adesso arriva la legge di stabilità in Parlamento, c'è qualcosa che fa fatica a digerire di quella legge? Ci sono più che fatica a digerire, mi auguro che nel passaggio parlamentare si rafforzi un po' la strumentazione accanto alla costruzione del master plan per gli interventi nel Mezzogiorno. Senta, sì, ce ne sono pochi, 2 miliardi e basta. Senta, come ministro di giustizia, lei cosa pensa dell'innalzamento del contante a 3.000 euro? È favorevole? Ma dico quello che ha detto Franceschini, non ero d'accordo, dopodiché abbiamo discusso, la maggioranza è andata in un'altra direzione, non ne farei la questione cruciale della legge di stabilità. Non eravate d'accordo? Lei non era d'accordo, Franceschini non era d'accordo. No, ha vinto Alfano 4-0, palla al centro. Si fermi lì, se fossimo stati eravate di più. Solo voi due. Ma no, ce n'è stato qualcun altro, ma insomma la maggioranza pensava che fosse un intervento utile. Quindi Renzi ha fatto bene? Renzi ha fatto quello che riteneva utile. Una legge di stabilità si condivide nel suo impianto e nel suo insieme, non nella singola norma. Senta, l'abolizione dell'IMU è una singola norma, fa parte dell'impianto? Credo che possa aiutare a sostenere i consumi. Quindi va bene? Sì. Senta, un'ultima domanda. Ma tra Marquez e Rossi, chi ha ragione? Rossi forever. Ah, Rossi grazie. Beh. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Mario, c'è il titolo del faccia a faccia con Orlando? Sì. Sembra Dario. Sembra Dario. Sembra Dario, indovinate qual è Dario? Franceschini. Esatto. E tu, Pietrangelo? Mi ha colpito la questione delle province cancellate, quindi le cancellate finiscono in cancelleria. Detto ciò, il vero titolo è questo: Renzi mi teme. Renzi mi teme. 800 24 00 24, numero verde. Comincia a temerne tanti. Allora 349 238 6666, l'SMS. Canzone. Non voglio un pretesto per pietà, sai che io detesto falsità, sii un po' più onesto quando vuoi finirla fra di noi. Non restar perplesso ad inventare scuse che del resto non vanno mai. Allora, Pietrangelo? Perché oggi tutta una confusione di sorrisi, di imbarazzi, di tensioni, tutte trattenute. Stamattina in direzione di Venezia ho visto partire i treni, io non lo so come. E invece che trovarmi qui negli studi di Roma di Mix 24, mi sono ritrovato alla stazione Termini. E lì, dalla porta del vagone, essendo i finestrini ormai chiusi ermeticamente, è apparsa François Hardy. E mi ha detto, la signora, metti oggi in radio Il Pretesto. Io mi sono emozionato di fronte all'apparizione di François Hardy. Le ho chiesto, ma nella sua versione, madame? Lei mi ha detto, no, in quella di Peppi Nocera. Tu ami Zalandex, non mi blanche, non mi tengo. Per François Hardy si può far di tutto. François Hardy, qualunque cosa. No? Tu faresti tu di tutto. Allora tu, Mario? Io farei di tutto. Di tutto. Senti, sentiamo la tua bolla cattiva, va? Però io l'avevo detto, l'avevo detto. Basta, Mario, tu sei sempre quello che l'aveva detto. L'avevo detto, peccantone. Sai cosa diceva mia nonna? Chi si loda si imbroda. Però io l'avevo detto. Basta, okay. E ho vinto io su questo punto. Va bene. Perché l'avevo detto, Raffaele Cantone ha detto dunque che Milano ha gli anticorpi e Roma no. E parliamo di corruzione e io volevo anche tutta commentarla, dire un sacco di cose, farvi parlare eccetera, poi ho trovato tre amici che lo fanno meglio di noi, senti qua. Noi è da retta Roma che t'hanno a Roma. A Roma c'è il raccordo anulare. Il raccordo anulare sai quando parti, ma mica sai se arrivi. Poi vengono tutti a Roma a scioperare. La Tiburtina non si passa, fai un'altra strada. Che succede? Sciopero, non si passa. I sarti del Molise. Perché ti snasce a Roma, sei penalizzato, signore. Dove vai? Non ti piace niente. Io sono a New York, sono di Roma, che devo fare? Io sono da Atene, sono di Roma. Cioè sì, Atene c'ha tutta la roba storica. Ma noi colonne d'Atene regalamo che panda. Che è colpa mia, se sono romano? Allora, questa è la parte, diciamo, ironica. La parte politica la lascio dire invece a un altro collega, non la dirò io, le voci sono molte. C'avevi voglia di lavorare oggi? Sì, ho preso, no? C'è un collega che ha espresso benissimo quello che già io pensavo eccetera. Dai. E cioè del buon Stefano Folli, che su Repubblica stamattina dice: le parole a Milano di Raffaele Cantone hanno rivelato uno spessore politico inconsueto per un funzionario sia pure di alto livello, e dunque fa il politico, perché se fa il politico secondo me non può fare il commissario, il garante dell'anticorruzione. Prego. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Allora, intanto sembra proprio che insetti, alghe, cibi creati in laboratorio potranno finire sulle nostre tavole con il via libera dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. La plenaria del Parlamento Europeo infatti ha approvato in prima lettura l'accordo con il Consiglio sul cosiddetto nuovo cibo. Quello vecchio intanto? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le carni lavorate sono cancerogene e ha paragonato i wurster alle sigarette e all'amianto. Guarda che alla Merkel non gliene va bene una, eh. Adesso dopo le Volkswagen ora dovrà richiamare anche milioni di wurster. Ecco, Cross fa ironia, però la tempesta mediatica che è scoppiata con l'allarme sulle carni rosse e gli insaccati rischia di mettere in ginocchio il comparto agricolo. Professor Bernabè, allarmismo puro o c'è da stare attenti sul serio? Ma se dovessi scegliere, 51 allarmismo puro, cioè nel senso che è prevalente quello. Intanto lo sa che dove è uscita la notizia? No, dove? È uscita su Lancet Oncology, una delle tante riviste che citiamo, come lei sa, sì, quotidianamente su Radio 24. Ma era nelle news di Lancet Oncology una paginetta e mezzo che riportava questo lavoro non del WHO, Organizzazione Mondiale della Sanità, ma dell'International Agency for Research on Cancer, che aveva avuto questa specie di appalto dal WHO. E quindi? Allora, una cosa è dire che gli insaccati sono carcinogenici, una cosa è dire che la carne rossa è probabilmente carcinogenica, perché queste sono le frasi esatte. Dire che sono carcinogenici come il tabacco e come l'amianto è vero, solo con la piccola differenza che probabilmente circa 1 milione di morti l'anno sono collegate al fumo di tabacco e al fumo di sigaretta, e quindi sì, il link con la sigaretta. Si calcola che probabilmente una trentina di mila morti di cancro del colon sono collegate all'assunzione di insaccati, cioè e c'è quindi una differenza tra 30.000 e 1 milione, tra 30.000 a 1.000, e quindi si tratta di esagerazioni, perché anche come ha detto lei la fonte era una fonte che aveva un'attendibilità diversa dal solito, non era l'OMS. Beh sì, insomma, poi l'OMS si è impadronito della cosa, ma l'ha comunicato come non come uno statement da conferenza stampa del presidente del WHO, due paginette su una delle centinaia di riviste che vengono pubblicate. E quindi insomma ci può essere dell'esagerazione. C'è qualche altra cosa dietro, perché che ci sia stata questa canea mediatica per me è veramente... E cosa singolare potrebbe esserci dietro? Questo non lo so, però certamente io tutte le volte che leggo e vedo questi eccessi, questo, diciamo, di esplosione di, sì, di... Ma poi, e dall'altra parte invece la santificazione del veganesimo, per esempio, sì, del vegetarianesimo, ma questo è proprio una forma che contraddice una interpretazione vera della vita, perché la vita non è fatta solo di carne o di alimenti, i fattori di rischio non sono solo quello, il fattore di rischio poi vero è come campi, la qualità della tua vita, se fai l'aperitivo la sera oppure se sei costretto a lavorare fino a tardi in modo insano e faticoso. Certo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS Salamino. Togliamo subito la musica un minuto, perché qui devo fare un calcolo. Allora, perché c'è, allora, sono passati credo 18 secondi, no? Poi devo calcolare un minuto e 47 di canzone, poi c'è l'indennità di ascolto. Allora, nel senso che devo fare ascoltare le canzoni, devo fare, poi sono 2 minuti e 45, poi si aggiunge la superfetazione di 3,84 porto 1 più 7 primi 2 secondi 23 portate 8 e 2 minuti. Oggi, insomma, sommando i precedenti di ogni puntata, il calcolo in difetto, perché voglio offrire uno sconto, è di 3700 minuti. Allora, domanda che mi domando, domanda che ci domandiamo, Giovanni: possiamo o no noi rivendicare per questa trasmissione il bollino di servizio pubblico? Tu penso di sì. Possiamo rivendicarlo, giusto? Allora, vengo e mi spiego. Varoufakis, l'ex ministro greco, è stato ospite a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio su Rai 3, ed è stato pagato 1000 euro netti al minuto. Ora, si parva licet, notate, però posso parlare anche in greco antico. Io magari non capisco di economia, giusto? Oh, però ho una laurea in filosofia teoretica e ho preso 110 e lode. Non sono greco, sono siciliano. E la Sicilia, sempre si parva licet, è messa peggio dell'Ellade. A Messina non c'è acqua pubblica da giorni, forse si deve aspettare lunedì, altro che Grecia. Allora, io dico, anche perché ho letto su Sole 24 Ore che ce l'ha ripresa, quindi mettiamo il canone anche qui, giusto? Sì. E allora io, facendo un minuto, chiudo il calcolo, ecco, non 2000, non 3000, neanche 4000, ma 5000 euro al minuto mi spettano. Che c'è anche l'indennità di ascolto, che è l'ascolto di me stesso, giusto Giovanni? Ti ascolti sempre, sì sì. Quindi posso avere mi sembra che l'indennità di ascolto tu abbia diritto, e Varoufakis ne ha presi molto di più, però perché era televisione, non era radio, e quindi diciamo meglio fare la televisione. Però al di là dello scherzo, la cosa che fa riflettere almeno un attimo è che la RAI ha detto: ma noi non c'entriamo niente, è la Endemol che paga tutto, la Endemol è la società che produce il programma, e noi gli diamo un budget complessivo per l'anno e loro se lo spendono come vogliono. Ma allora io mi chiedo, che cosa è Che Tempo Che Fa? È un programma molto bello, molto popolare, fatto negli studi della RAI, da tecnici della RAI, datori luci della RAI, registi forse esterni pagati dalla RAI, e soprattutto sono 3 interviste più un comico. Allora, se all'interno della RAI, dove ci sono 15.000 dipendenti e 1.700 giornalisti, c'è bisogno della Endemol per telefonare a Varoufakis e chiedergli di venire in trasmissione, io mi chiedo se lì non c'è un problema, e se non fosse più normale che fosse quello, fosse un programma fatto dalla RAI. Vale sempre il principio di Ennio Flaiano a questo punto. Quale? Per il compagno Varoufakis. Noi non possiamo che dire: non siamo comunisti, non possiamo permettercelo. Vabbè, sì. È come abitare in centro. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24, il canzoniere. La maledizione ricada sull'anima mia se io non ti ami. Quando non ti amerò più, il caos sarà tornato. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS è facilissimo. Mario, un'ultima bolla? Sì. Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Oh, Battiato oggi l'ho messo io, è la cura, e non a caso è la cura, perché c'è quella dell'anima, il plagio è definitivo, esatto. Oramai sì. La musica rock ha Battiato, lo conteggio nelle indennità. Certo, indennità secchi. Vabbè, insomma, è la cura dell'anima e la cura del corpo. La cura del corpo ci sono i farmaci. Segnalo che Pfizer, quelli del Viagra, si stanno comprando Allergan, che sono quelli di una famosa pomata e altre linee mediche varie. E insomma, nasce, se tutto va bene, sono in corso i colloqui, il colosso dell'industria farmaceutica. Valore dell'operazione: 300 miliardi di dollari. Il piatto è servito, cari. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Il denaro c'è ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra, magicamente. È il libero mercato e tu ne fai parte. Essere i primi, essere i più furbi o truffare. Non vorrai fare quello che stai pensando. Stai vendendo qualcosa che sai che non vale niente. Ho deciso, Sam. Se lo fai, ucciderai il mercato. Vendiamo ad acquirenti consenzienti, semplicemente per riuscire a sopravvivere. Ricordatevi questo giorno. Ricordatevelo bene. È il 29 ottobre del 29, Mario. Svanisce il sogno americano? No, anche se naturalmente lascia un segno nella storia e soprattutto nella psicologia dell'americano medio, perché il risparmio viene minato e tutti sanno che il risparmio degli americani è nel mercato azionario soprattutto, quindi è una data importante. I crolli poi si succederanno. Certo, infatti nell'87, nel 2001, sì. Nel 2008, insomma. Nell'agosto scorso, 24 agosto scorso, crollano le borse asiatiche, sì. Per esempio il loro venerdì nero. Ecco, una curiosità: perché i cinesi seguono House of Cards? Dal premier a sì. Milioni di spettatori appassionati, sorprendente. Perché House of Cards è tutto quello che non sono i cinesi. In realtà la cultura espressa, l'immaginario espresso da House of Cards non è quello del mandarinato cinese. L'esercizio del potere nell'impero celeste sono attratti dal diverso, è completamente insomma. Diverso, sì, e anche la borsa è diversa. Infatti la borsa dei cinesi è per i cinesi, la borsa americana è per il mondo. Wall Street, dal crack del 29 alla grande depressione, i segreti, le analisi, i protagonisti, qui a Mix 24, il giallo di quei giorni dopo il giornale radio. Non è possibile, io non ci sto. E per finire, Mina, volami nel cuore. Quello che fai, ti prego, non andare via. Per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine.